Focus Economia. Le 17, 7 minuti e 42 secondi. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia da Simone Spezia. Di cosa volete che parliamo oggi? Naturalmente dell'asta dei titoli di Stato che c'è stata questa mattina. Come già vi dicevamo nel giornale radio, rendimenti dimezzati rispetto all'asta di novembre. Eppure tutto questo ai mercati, come già si diceva nel giornale radio, non sembra bastare. Non sono negative le borse, ma di nuovo sui rendimenti dei titoli di Stato italiani decennali, sopra il 7% un'altra volta, mentre lo spread, ossia la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani a 10 anni e quelli tedeschi, è risalito sopra i 510 punti. Segno che evidentemente c'è stato un segnale positivo questa mattina, ma chiaramente non basta. Di questo discuteremo e parleremo, cercheremo di andare un po' più a fondo, cercheremo anche di capire, vista la possente iniezione di liquidità arrivata dalla Banca Centrale Europea per le banche europee, e in particolare ci soffermeremo come ovvio su quelle italiane, che uso ne stanno facendo, perché qua c'è da capire se i titoli di Stato di questa mattina se li sono comprati le banche sulla scorta dei quattrini arrivati dalla Banca Centrale Europea ad un costo molto limitato, un 1% lo ricordiamo, o ci sono altre motivazioni. Questo da una parte. Dall'altra parte, quanti poi di questi soldi arrivati alle banche dalla Banca Centrale Europea verranno utilizzati, e questo è il grande tema, per dare una spinta all'economia reale. Le banche assicurano che all'economia reale i soldi arriveranno, insomma bisognerà vedere poi se questa è una possibilità concreta, vista anche la grande quantità di obbligazioni bancarie in scadenza l'anno prossimo, e quindi delle necessità, tenendo conto delle necessità che hanno le stesse banche per quanto riguarda i loro bilanci. Questo sarà il tema centrale naturalmente di questa puntata, il tutto mentre, come già vi diceva il giornale radio, è riunito il Consiglio dei Ministri, dove si dovrebbe iniziare ad affrontare il tema della crescita, della cosiddetta fase 2. 349-238-6666 per i vostri sms. Iniziamo come sempre dalle notizie in breve. Apertura in lieve rialzo oggi per il petrolio a New York a $101,42 al barile, le quotazioni sono salite di 8 centesimi, mentre per quanto riguarda le valute invece l'euro è vicino ai minimi da 10 anni contro lo yen a 100,99 e in questo momento contro dollaro quota 1,29,62, quindi sotto 1,30. Sono arrivati oggi i dati di un bilancio annuale della borsa italiana. Milano ha perso il 25% nel 2011, tutto questo vale la borsa, la piazza milanese ha raggiunto una capitalizzazione di 333,3 miliardi di euro, pari al 20,7% del PIL, ed era al 27,6 a fine 2010. A Milano il 2011 si è chiuso con 328 società quotate sui mercati, le nuove ammissioni compresa Fiat Industrial sono state 10, di cui 9 IPO, e solo quella di Ferragamo è approdata sul mercato principale. Le società revocate dal listino sono state invece 14. Vi ricordo tra l'altro che al bilancio annuale di Piazza Affari era dedicata la puntata di questa mattina di Salva Danaio. Se siete interessati a maggiori dettagli potete naturalmente scaricarla da internet. Abbiamo parlato ieri di consumi con Confesercenti. Ebbene, oggi altri dati dall'indagine Confesercenti SVG. Crisi e tasse spengono il Capodanno. L'86% degli italiani celebrerà il nuovo anno a casa. Mai così tanti negli ultimi 5 anni. Il taglio comincerà dal veglione, per cui si spenderanno in totale 2,4 miliardi, ben 328 milioni in meno del 2010. E pesante, se vogliamo anche inaspettatamente, il bilancio del Natale per elettrodomestici ed elettronica di consumo, le vendite dei cosiddetti bianchi, e quindi per intenderci lavatrici, lavapiatti, frigoriferi e via dicendo, sono diminuite del 12%, e ancora più giù, meno 14%, quelle relative a TV e strumenti audio, malgrado l'arrivo del digitale terrestre in molte regioni e della tecnologia 3D. Trend piatto per smartphone, tablet e PC, e ancora un segno negativo per piccoli elettrodomestici. È il quadro che emerge da una ricerca dell'AIRES, che è l'associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati. Brutta storia che arriva da Cremona, riguarda un gruppo di 12 dipendenti della ditta ABM, dell'ABM Vittoria di San Giovanni in Croce, provincia di Cremona. Sono tornati dalle vacanze e hanno trovato la lettera di cessazione del rapporto di lavoro. L'azienda, attiva da 10 anni, è specializzata nella produzione di estintori, ricambi, accessori simili al prodotto principale. Era stata prospettata una situazione di crisi all'inizio del mese, decisa una cassa integrazione, sospesa però dopo un paio di giorni. Ci sono i dati dell'Istat, in parte ve li ha già dati il giornale radio. Nel 2065, insomma, se ci saremo ancora, in Italia saremo 61,3 milioni, ve la diamo così. Nei prossimi 30 anni più anziani e meno giovani, il quadro sul futuro demografico del paese. Nel 2043 gli ultra 65enni oltrepasseranno il 32% e si assesteranno più o meno su questo livello anche negli anni successivi. Nel 2065 gli stranieri saranno il triplo di quelli che sono attualmente, arriveranno a 14 milioni. Ci sarà anche un forte calo della forza lavoro, cioè diminuirà la popolazione in età lavorativa tra 15 e 64 anni. Poi con le modifiche del regime pensionistico probabilmente anche questi meccanismi di calcolo andranno in qualche modo rivisti, però si passerà dal 65,7 al 62,8 nel 2026. Questo è il quadro dall'Istat e ora ci prendiamo come al solito lo spazio per qualche notizia un po' più curiosa. Un riccone avaro e vecchio dice: ahimè, così non va, vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Oh, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà, e la crisi finirà. Iniziamo da Anche i ricchi piangono. Arriva dalla Gran Bretagna Rolex, vini d'annata, diamanti, Ferrari, gli status symbol finiscono al banco dei pegni. Banchieri cui bonus non si sono materializzati, imprenditori colpiti dalla crisi del credito e altri ex ricchi temporaneamente in bolletta hanno trovato quest'anno asilo in quello che un tempo era il rifugio dei poveri. Il risultato è che nei caveau di Paul Aitken, un broker specializzato in pegni di ricchi, sono arrivati quest'anno anelli di diamanti, orologi di marca, vini pregiati, una scultura di Henry Moore, chitarre Fender, Porsche e BMW, offerti come appoggio per prestiti da 1.000 sterline a 1 milione, necessari a mantenere il vecchio tenore di vita. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Oh, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. Ancora la Gran Bretagna, la crisi in Gran Bretagna ha portato un aumento delle morti di ciclisti, a quanto pare, più 7% nel 2011, incremento dovuto al fatto che in tempo di crisi sono più i pendolari che adottano la bicicletta al posto del treno, della metropolitana e dell'auto. Ma c'è di più, il governo britannico mette in allerta gli automobilisti contro il rischio di diventare bersaglio dell'ultimo trend in fatto di furti, e chissà che non avvenga anche in Italia, quello della benzina. Sono particolarmente appetibili benzina e diesel, mentre i convertitori catalitici delle marmitte sono rubati per il contenuto in metallo. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Ah, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. E c'è la carica dei dipendenti pubblici a Roma, perché qua parliamo di crisi, ma insomma c'è qualcuno che se ne occupa un po' meno, insomma. Il Comune di Roma, dall'alto ai suoi 62.000 dipendenti, stima per difetto a più o meno pochi meno dipendenti rispetto a colossi come Intesa San Paolo, 70.000, e assai più di Finmeccanica, che ne ha 45.000, per non parlare di Enel. I 37.383 dipendenti che il gruppo elettrico ha in Italia eguagliano il numero di quelli che lavorano nelle società controllate o partecipate del Campidoglio. (349) 238 6666 per i vostri SMS. E veniamo al primo e il principale tema di giornata, che è naturalmente l'asta dei bot e quanto ne consegue. Sono stati collocati bot a 6 mesi, il rendimento medio è letteralmente crollato, si è dimezzato al 3,25% dal 6,50% di fine novembre. La domanda è stata piuttosto buona. E però, come si diceva, i mercati poi non è che abbiano reagito un granché bene, bene nell'immediato, ma poi in discesa. Professor Franco Bruni, docente di economia monetaria internazionale all'Università Bocconi di Milano, editorialista della Stampa, buonasera. Buonasera. E buonasera a Moria Longo del Sole 24 Ore, in studio con noi. Moria, buonasera. Buonasera. Spesso ospite quando ci occupiamo di queste cose. Una sua prima valutazione, professore, sull'asta di oggi, che ci è sembrata estremamente positiva, ma poi non accolta così bene, a quanto pare. La liquidità del sistema è abbondante e emissioni di questo genere è logico che vengano collocate con abbastanza facilità per adesso. Si tratta di vedere come i corsi dei titoli più a lungo termine reagiscono a tutto questo. A tutti gli effetti, quelli più a lungo termine, oggi per quelli più a lungo termine non è che le cose vadano un granché bene, perché rendimento dei titoli di Stato italiani a 10 anni è oltre il 7% un'altra volta, mentre lo spread con i titoli di Stato tedeschi è a 511 punti. Ho l'impressione, professore, che il segnale che stia dando il mercato è abbastanza chiaro, insomma, che appunto c'è liquidità in giro e quindi sui titoli di Stato si può agire, però i problemi di fondo sono tutt'altro che risolti. Sì, non sono risolti i problemi di fondo, diciamo, politici italiani, i provvedimenti non sono ancora completi, ci sono problemi in Europa, ma soprattutto ci sono problemi nel sistema bancario e finanziario mondiale. mondiale direi, ma in particolare in quello europeo, in cui c'è ancora un ingolfamento dovuto a rischi più o meno nascosti e mancanza di trasparenza e di fiducia. Quindi, e poi ha un problema di lungo periodo, che è quello di un sistema bancario che deve ridurre le sue dimensioni, il suo grado di indebitamento, e nello stesso tempo però deve finanziare sia le imprese private in un periodo di crisi dove la domanda di credito ha un significato particolare e più rischioso, sia il settore pubblico che ancora per diverso tempo in diversi paesi sarà un vorace richiedente di credito. Quindi è un problema abbastanza difficile da risolvere, insomma, smontare il bilancio delle banche in prossimi 10 anni, ma nello stesso tempo finanziare molto sia le imprese che i governi è una soluzione difficile. Bisogna trovare il metodo, forse qualche metodo esiste e verrà trovato, ma è questo il problema di fondo. A testimonianza dell'ingolfamento del quale ci parlava il professore, i dati di oggi sui nuovi record, sul record, non esiste nuovo record, quando c'è un record e basta, dei depositi overnight delle banche dell'Eurozona presso la BCE. Gli istituti hanno parcheggiato, per così dire, 452 miliardi di euro, livello mai raggiunto dall'introduzione dell'euro, e sopra quota 411, che era il record precedente, del quale tra l'altro gli avevamo parlato giusto ieri. Allora, Moria Longo, anche da te un primo giudizio sull'asta che abbiamo visto oggi. Sì, io concordo con quanto diceva il professore. L'asta e il fatto che il Tesoro italiano sia riuscito a collocare con facilità oggi, con tassi in ribasso rispetto a novembre, i titoli di Stato a brevissimo termine, come i BOT, appunto a 6 mesi, è l'altra faccia della medaglia di quello che dicevi tu adesso, cioè che le banche stanno depositando un sacco di soldi, appunto 400 e passa miliardi, presso la Banca Centrale Europea. Ricordo che quando una banca deposita denaro presso la Banca Centrale Europea, di fatto perde, perché il tasso di interesse che paga su questo deposito la BCE è dello 0,25%, e il tasso al quale le banche hanno invece preso questa liquidità in prestito è più alto. Quindi una banca, quando fa questo, perde dei soldi. Perché le banche depositano i soldi? Innanzitutto perché adesso è a fine dell'anno, quindi nessuno vuole prendere posizione, quindi c'è anche un momento, diciamo, contingente del momento. Però la realtà è che c'è tantissima liquidità che non circola. Le banche hanno paura di far circolare questo denaro, perché hanno paura di ritrovarsi scoperte quando hanno delle scadenze, quando hanno le borse che crollano, e quindi preferiscono parcheggiare il denaro alla Banca Centrale Europea pur di mantenere sotto il materasso, diciamo, una quantità sufficiente di denaro. L'asta dei BOT è l'altra faccia di questa medaglia, perché non solo le banche, che mi dicono che non hanno poi partecipato più di tanto a quest'asta, ma anche un sacco di gente. Mi hanno detto che, per esempio, parlando con le sale operative delle banche, dicono che in quest'asta hanno partecipato tanti risparmiatori, hanno partecipato dei fondi. Il BOT cos'è in fondo? Un parcheggio. È un parcheggio, tra l'altro, remunerato ben di più rispetto al deposito della Banca Centrale Europea. Siccome il BOT è a breve scadenza, quindi molto meno rischioso rispetto a un BTP che dura 10 anni, quindi il rischio ovviamente è spalmato, sì, su 10 anni, è un parcheggio e tanti ne hanno approfittato. Mi dicevano che la domanda è stata abbastanza variegata, sia con i risparmiatori, sia fondi, soprattutto italiani, un po' di banche, ma le grandi banche non hanno approfittato più di tanto di quest'asta. Quindi, diciamo, la domanda è stata sostenuta in questo modo, è un parcheggio. Di questa liquidità che c'è in giro, professor Bruni, una parte consistente è arrivata dalla Banca Centrale Europea con l'operazione della quale lungamente abbiamo parlato nei giorni scorsi, ossia questa concessione di un prestito alle banche, la diciamo molto semplicemente, con un tasso dell'1% a 3 anni, che ha consentito a queste banche di respirare. Come si diceva, il problema è proprio quello, perché si sta ragionando su che cosa faranno le banche di tutto questo. È molto probabile, ci sembra di capire a questo punto, che l'asta di oggi non è stata un'operazione di, come si dice in gergo, carry trade, cioè in sostanza prendo in prestito denaro all'1% e mi compro bot al 3,25% perché ci guadagno, Moria. Mi sembra di capire che da quel che ci dicevi non è... Sì, non è stato adesso ovviamente nessuno può saperlo, però le grandi banche non l'hanno fatto, comunque non è stato fatto in maniera massiccia, non è stato questo probabilmente il vero motivo della domanda nell'asta di bot. Sicuramente qualcuno l'avrà fatto in piccolo piccola parte, ma non è stato questo un movimento di massa, diciamo. Si è detto quando c'è stata l'operazione della BCE, tre opzioni: o le banche faranno carry trade, cosa che non ci sembra che sia stato il caso a questo punto, o semplicemente si occuperanno delle loro obbligazioni in scadenza nel 2012, daranno un po' di fiato all'economia, o sperabilmente per l'economia italiana anche, queste tre cose messe insieme. In realtà i segnali che sembrano arrivare sono diversi, professore. Ma la liquidità, per quanto abbondante, se sta ferma non serve a niente. Quello che serve è il circolo del credito, e questo avviene se c'è fiducia nelle controparti. Le banche devono finanziare le imprese che sono nei guai, devono finanziare altre banche che sono notoriamente in situazione difficile o comunque che stanno ancora riflettendo sulla loro strategia, sul loro modello di business futuro, sul tipo di operazioni che possono fare, e devono finanziare i governi che hanno una prospettiva difficile di aggiustamento, in alcuni casi addirittura si suppone che possano incontrare dei problemi di liquidità o di insolvenza. Quindi in queste condizioni il sistema bancario alla fine tiene questa liquidità in media abbastanza ferma, e questo non permette di risolvere il problema della crisi da quel lato lì. È per quello che io non sono d'accordo con tutti coloro, soprattutto diciamo di scuola americana, che insistono sul fatto che lo stimolo monetario può sbloccare l'economia mondiale. Non è da quel lato che si può prendere il problema. Professore, mi sembra che lei abbia chiarito abbastanza bene, così come ha fatto il nostro Moria Longo, il clima di sfiducia che circola tra banche, il motivo per il quale questa liquidità non sta girando. Ha un impatto, secondo lei, anche l'imposizione di criteri patrimoniali piuttosto rigidi, che sono stati sottoposti anche a un certo grado di critiche, anche per le modalità nelle quali sono stati espressi e sono stati richiesti dall'EBA, l'autorità bancaria europea? Soprattutto per le modalità, come diceva lei, cioè è indubbio che le banche devono capitalizzarsi di più, nel senso che devono indebitarsi di meno, insomma, negli anni futuri. È indubbio che siamo arrivati a questa crisi anche perché il bilancio delle banche è cresciuto troppo rispetto al loro capitale, e quindi è indubbio che occorre capitale. Basilea 3 è stata una riforma probabilmente tecnicamente ancora piena di difetti, troppo complicata, che non è andata all'osso della questione su certi aspetti, ma soprattutto è stata anticipata la sua, il sistema bancario ha deciso, sollecitato dalla stessa autorità, di anticipare l'applicazione in sostanza di questi nuovi criteri di Basilea che sono nati per essere messi in pratica con gradualità nei prossimi tempi. E tutto questo non è stato gestito adeguatamente. Non credo che possiamo dare più di tanto la colpa all'EBA, che è appena nata ed è sommersa di influenze, di tensioni che vengono da tutta l'Europa. Ma indubbiamente non è stata gestita tutta questa faccenda in modo corretto e si è creato un grandissimo pasticcio, e quindi indubbiamente Basilea 3 è uno dei problemi che crea confusione. Allora, so che Moria Longo mi faceva cenno che voleva aggiungere qualcosa, però noi adesso abbiamo una pausa, quindi lo facciamo subito dopo. Vabbè, qualche messaggio al 349-238-6666. Apro anche io una banca, prendo i soldi all'1 e compro bot al 4 e ci saluta. Insomma, magari lo potessimo fare. Chi ci scrive dei piccoli che hanno comprato la BCE, non abbiamo mai parlato di piccoli risparmiatori che hanno preso denaro alla BCE. Si parlava dei piccoli che compravano bot, forse mi sono spiegato male. Sì. Le banche si finanziano in BCE, i piccoli risparmiatori hanno comprato bot. Io parlavo dell'asta dei bot. Naturalmente. Che cosa volevi aggiungere, Moria, su Basilea? No, volevo aggiungere che il problema è che non è tanto le normative giuste o sbagliate, il problema è che si contraddicono l'una con l'altra. Faccio un esempio. Basilea 2, la vecchia normativa delle banche, quella attuale ancora in corso, incentivava le banche ad acquistare titoli di Stato per il semplice motivo che comprando titoli di Stato le banche non bruciavano capitale, cosa che invece facevano facendo altre attività. Quindi incentivava l'acquisto di titoli di Stato. Poi è arrivata la crisi col crollo delle borse perché le banche avevano troppi titoli di Stato in bilancio e arriva l'EBA, l'autorità bancaria europea, che dice: banche, voi dovete fare un aumento di capitale perché avete troppi titoli di Stato in bilancio. Dopodiché, dopo pochi giorni, arriva la Banca Centrale Europea che presta soldi alle banche europee e anche italiane dicendo: con questi soldi che vi do all'1% comprate titoli di Stato italiani o di altri paesi periferici. Allora, il problema è che tutto si contraddice. Magari Basilea, l'EBA e la Banca Centrale hanno tutte e tre la loro parte di ragione. Il problema è che messi insieme danno un messaggio contraddittorio e assolutamente schizofrenico. Secondo molti sul mercato, io condivido questa opinione, è vero che le banche hanno bisogno di capitale perché sono troppo deboli attualmente, però non si può lasciare allo sbaraglio sul mercato. Tanti suggeriscono per esempio che sia il fondo salva stati a garantire il cosiddetto inoptato, cioè l'aumento di capitale che il mercato non è in grado di dare, il capitale che il mercato non è in grado di dare alle banche. E questa sarebbe una soluzione, però per fare questo bisognerebbe da un lato permettere al fondo salva stati di farlo e secondo luogo qualcuno dovrebbe mettere i soldi nel fondo salva stati, che attualmente non li ha, solo garanzie degli stati. Quindi qual è il problema? Il vero problema dell'Europa è che si sta cercando di risolvere questa crisi in due modi: uno con norme contraddittorie che si contraddicono una con l'altra e due senza che nessuno ci metta i soldi. E questo è il vero problema. Si fanno tutti degli arzigogoli finanziari, delle strutture complicatissime per aggirare l'unico vero problema, che non c'è nessuno disposto ad aprire il proprio portafoglio a livello di stati, di banche centrali. Per esempio, la Banca Centrale Europea non può finanziare gli stati, allora si fa questo giro per cui sono gli stati, le banche centrali nazionali che finanziano il fondo monetario, il quale poi finanzia gli stati. Oppure la banca centrale finanzia le banche perché queste comprano titoli di Stato. È un modo per continuare a girare intorno al fatto che non si vuole risolvere il vero problema, cioè di fare normative coerenti, lineari, che risolvano il problema e in secondo luogo con qualcuno che alla fine paghi il conto, perché il conto c'è da pagare. Naturalmente, qua la dico come battuta per quel che dicevi prima, insomma siamo quasi al paradosso. Nel 2008 i titoli tossici erano l'impacchettamento dei mutui subprime, da quest'anno sono i titoli di Stato. Professor Bruni, ci dia una via d'uscita, un'idea di soluzione. Ma nel breve periodo credo che la cosa più importante sia di mettere a posto questa faccenda del fondo salva stati, cioè in realtà di creare un ente autonomo, già ha un nome, quasi uno statuto, questo European Stability Mechanism, che però deve essere implementato al più presto con dei soldi fermi che vengono dai governi, con una gestione autonoma, tecnicamente libera di inventarsi le operazioni con grande autonomia, quindi capace anche di dare una regia al tutto, e questo è nel breve periodo. Nel lungo periodo, ahimè, io credo che dobbiamo prepararci a anni di difficoltà in cui tutti quanti dovremo pagare conti e questi debiti, e dobbiamo approfittarne per farlo in un modo, accompagnando tutto questo con delle riforme che rendano le nostre economie più produttive, che mettano i capitali in impieghi più, diciamo, efficienti, e quindi insomma dobbiamo riorganizzare sia i settori pubblici che i settori privati con un grosso sacrificio ma anche un grosso impegno collettivo. Grazie al professor Franco Bruni, docente di economia monetaria internazionale all'Università Bocconi di Milano ed editorialista della Stampa, per essere stato con noi. Buonasera professor Bruni. Buonasera. E grazie anche a Moria Longo, collega del Sole 24 Ore, che spesso ci accompagna nel commentare queste fasi di mercato. Grazie Moria e buonasera. Grazie a voi, buonasera a tutti. Ed è il momento della borsa. Borsa che chiude in negativo, il FTSE MIB cede lo 0,85%, il FTSE All Share lo 0,75%, negativa anche il resto d'Europa, Parigi giù dell'1,03%, Francoforte del 2,01%, negativa anche l'America che cede l'1% sul Dow Jones e l'1,15% sullo Standard & Poor's, Londra in realtà in guadagno dello 0,18%. Guido Maurino, Radio Cori, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, ti chiedo un'idea generale di quello che è successo oggi in borsa, di quello che sta succedendo soprattutto nell'ultima parte, perché della fiammata iniziale sull'onda dell'asta dei titoli di Stato italiani abbiamo parlato ampiamente fino ad ora, e poi anche qualche spiegazione sulle differenze, perché questa Francoforte che perde 2 punti percentuali contro l'1% circa delle altre borse ci incuriosisce. Sì, allora, dicevate voi prima dell'asta sui titoli di Stato, appunto gli operatori non sono rimasti particolarmente convinti, attendono di vedere domani quando ci sarà nuove aste sui titoli di Stato a più lunga scadenza, e questo giustifica in parte il fatto che dopo una mattinata positiva dei destini europei, via via nel corso della giornata, complice anche l'apertura in negativo di Wall Street, i guadagni si siano azzerati e si è arrivati poi a una chiusura in negativo. Non ci sono particolari ragioni per quello che riguarda Francoforte, se non un cattivo andamento che si è registrato oggi sul settore auto, che è particolarmente forte a Francoforte, per cui fra i titoli peggiori a Francoforte abbiamo ad esempio Daimler che ha ceduto il 3,89%, BMW il 3%, ma anche il resto del settore auto in Europa ha fatto male, perché Renault ha ceduto il 3,24%, Peugeot il 2,83% e a Milano anche Fiat ha chiuso in rosso. Meriterebbe quasi la canzone con la quale terminiamo in genere, insomma, arriviamo intorno alle 17:15, ma cos'è questa crisi? Il motivo per il quale l'Ottomatica guadagna il 2,11%, Guido, che cosa succede? Siamo un popolo di giocatori e continuiamo a giocare molto, si calcola che alla fine di quest'anno, alla fine del 2011, l'incremento di giocate sarà del 24,3% a 76,5 miliardi di euro, e quindi chi gestisce i giochi ne approfitta. Infatti l'Ottomatica ha guadagnato il 2,11%, un regalo potrebbe arrivare anche dal governo che, secondo indiscrezioni, avrebbe in cantiere un decreto per concedere ai big delle scommesse nuove licenze gratis per le slot machine, quindi un'ulteriore notizia positiva. Si gioca e si beve, Campari guadagna l'1,5%, è il secondo titolo migliore sul FTSE MIB, ebbene però fa anche in pregilo, più 0,77%. Sì, dopo la cessione della quota di Cresti in Igli, che è un po' il veicolo che controlla in pregiro con circa il 30%, si riaprono un po' i giochi per il riassetto della società di costruzioni. Si cerca di capire cosa vorranno fare i Benetton, che attraverso Atlantia controllano a questo punto l'altro 33% di Igli, e cosa succederà con Salini che in questo momento è fuori, diciamo, dalla società che controlla in pregino, ma che ha acquistato sul mercato il 15%, quindi ancora gli operatori si interrogano un po' sul riassetto, e questo è un fatto positivo per il titolo. Ancora i titoli di Stato naturalmente a pesare per quel che riguarda il lato bancario, del quale abbiamo parlato fino adesso, mi sembra di capire, Guido, perché tra l'altro il rendimento dei titoli decennali si è fermato al 6,99%, però insomma praticamente un 7%, mentre invece lo spread con i titoli di Stato tedeschi è a 510 punti, è questo che ha pesato un'altra volta sulle banche, suppongo. Infatti proprio il settore bancario è stato uno di quelli che si è subito visto dai grafici di borsa, che è peggiorato nel corso della giornata non appena è tornato ad aumentare lo spread fra BTP e Bund tedeschi. Per andare nel dettaglio, Banco Popolare giù del 3,92%, Mediobanca del 3,27%, negativa anche Mediaset che cede il 3,06%, giù la Popolare Emilia Romagna del 2,80%, Ubibanca del 2,7%, tutte. Questo il quadro dei peggiori tra i bancari: il Monte dei Paschi dell'1%, la Popolare di Milano dello 0,82%. Ti voglio su altri titoli, in particolare Edison e Fonsai, della quale molto ci chiedete, ma subito dopo la viabilità. Quarantasei minuti, di nuovo buonasera da Simone Spezia. Stiamo commentando la giornata di borsa, una giornata di borsa che si è chiusa negativa, in calo il FTSE MIB dello 0,85% e il FTSE All Share dello 0,75%, ed eravamo rimasti in sospeso su Edison e Fondiari Assai. Partirei da Edison perché mi sa che ce la sbrighiamo abbastanza rapida, Guido. Edison ha fatto più 0,18%, si è chiuso finalmente il riassetto per la società energetica, le quote andranno ai francesi di EDF, mentre gli altri soci italiani otterranno il 100% della partecipata di Edison e di Power. La notizia fa venire meno l'appeal speculativo, si parla a questo punto di un'OPA che dovrebbe arrivare su Edison attorno a 0,84 euro. E quindi insomma Edison non si è più mossa da quei valori. Da quei valori. Ok. E per quanto riguarda Fonsai invece? Per quello che riguarda Fonsai ci si continua a interrogare su chi andrà a sottoscrivere un aumento di capitale da 750 milioni di euro dopo che i digresti che controllavano la società hanno già fatto capire che non potranno sottoscriverlo per parte loro e si diluiranno quindi di conseguenza. Fonsai oggi ha ceduto il 5,38%, gli advisor stanno sondando vari soggetti fra fondi di private equity, famiglie come i Malacalza, per vedere se c'è la possibilità di individuare un nuovo socio forte per il gruppo assicurativo. Nel frattempo però rimane l'incertezza e il titolo ne risente. Naturalmente. E quanto ha perso oggi alla fine? 5,38%. Bene. Bene, insomma, si fa per dire, naturalmente. Grazie a Guido Maurino di Radio Core Il Sole 24 Ore per essere stato con noi e buonasera. Grazie a voi. E adesso parliamo di imprese, ne parliamo in parte, è un tema che abbiamo già affrontato prima, quando si parlava di banche, della necessità che le banche riaprano i rubinetti del credito, naturalmente, dopo l'iniezione di liquidità della Banca Centrale Europea, perché le difficoltà si fanno sentire. I dati dell'osservatorio di Cerved Group oggi: aumentano i ritardi e i protesti, a soffrire sono soprattutto le imprese del terziario e quelle che operano nel centro-sud. Secondo Cerved, i segnali positivi sul fronte dei pagamenti emersi nei primi sei mesi dell'anno non sono confortati da quelli evidenziati nel terzo trimestre. E ancora, nel 2010 è salita al 52,2% la quota di piccole e medie imprese che ha cercato finanziamenti esterni, superiore al 36,5% del 2007. Ed è scesa dall'87,5% al 79,8% quella che ha ottenuto almeno un finanziamento. È risultato di un report dell'Istat sull'accesso al credito delle PMI relativo però all'anno scorso. Noi parliamo di un gruppo di imprese in particolare, delle imprese dell'Aquila, dove l'economia è ripartita solo in parte e nel frattempo è agli sgoccioli la moratoria fiscale ottenuta subito dopo il terremoto dell'aprile 2009. Tra l'altro non sappiamo se abbiano parlato di questo, ma il presidente del Consiglio Mario Monti ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente della regione Abruzzo Gianni Chiodi. Comunque, da gennaio gli aquilani inizieranno a pagare tasse e contributi arretrati a rate con una una riduzione del 60%. Sentiamo Fabio Spinosa Pingue, presidente di Confindustria L'Aquila, intervistato da Andrea Viali. Il compito nostro fin dal primo giorno, fin dal 7 che ha visto L'Aquila, dove si è scatenata questa violenza in maniera vile della natura, il compito nostro è stato quello di vedere il famoso bicchiere non solo mezzo pieno ma che tracimasse, no? E da allora sono passati circa 30 mesi, tante luci ma anche tante ombre. Del resto siamo di fronte letteralmente ad un'opera ciclopica, perché L'Aquila nel suo cratere è stato colpito al cuore, il centro storico, insomma davvero ci vuole un'opera straordinaria, un impegno straordinario di tutta la comunità. Ma oggi qual è la realtà che vivono le imprese, gli imprenditori dell'Aquila? Ma per quanto riguarda le attività imprenditoriali, molto a macchia di leopardo, insomma ci sono attività che hanno ripreso subito, ci sono attività invece che hanno avuto danni enormi, ci sono attività per esempio tutte quelle commerciali, artigianali del centro storico che ancora oggi stanno a girarsi i polsi semplicemente perché non possono rientrare, quindi è molto a macchia di leopardo insomma questa vicenda delle attività produttive, commerciali ed artigianali. È chiaro che questo alimenta anche un po' di risentimenti, no? Acuisce i sentimenti di tanti operatori economici, perché insomma da una parte c'è gente che sta andando bene, che ha ripreso, c'è gente che sta andando molto bene e dall'altro c'è gente letteralmente ferma. Ma secondo lei qual è il sentimento prevalente? No, il sentimento anche qui è molto variegato, ma insomma quello da parte nostra, per la sigla che rappresento, non può che essere di ottimismo, insomma certamente in un contesto nazionale e internazionale che nessuno vuole ignorare, ma insomma c'è tanto lavoro da fare, noi stiamo cercando di far passare il terremoto, visto che non ce lo siamo cercati, come una straordinaria opportunità per ridisegnare questa città, capoluogo di provincia e capoluogo di regione, no? Quindi sia la città che la regione. Questo è un po' il nostro compito, quindi è il momento dei coraggiosi, dei visionari. Peraltro tenga presente che da qui a qualche mese all'Aquila c'è il rinnovo del sindaco, del consiglio comunale, per cui c'è sostanzialmente una campagna elettorale che già dura da qualche mese. Uno dei temi di questa campagna elettorale è l'istituzione di una zona franca, anche se poi da gennaio gli aquilani torneranno a pagare le tasse arretrate. Lei cosa ne pensa? Noi il mondo produttivo siamo perfettamente consapevoli delle lungaggini, delle pastoie, dei regolamenti difficili, comunitari. Per noi è chiaro che la chiediamo, però sono passati 30 mesi, non è che possiamo stare ad aspettare la zona franca, però io credo che c'è da salutare positivamente, in maniera straordinaria, direi, questa opera magistrale, l'abbiamo definita, che ha fatto Letta con tutte le forze politiche regionali, quindi sia di sinistra che di centro che di destra, tutti assieme, per quanto riguarda la definizione delle tasse, quindi con la decurtazione del 60% che riguarda l'IRPEF, l'INPS e l'IVA, che è una straordinaria boccata d'ossigeno in termini di non solo di liquidità ma soprattutto di fiducia che si è restituita alla comunità del cratere, perché fino adesso, fino a un mese fa, siamo andati avanti con le proroghe di 6 mesi in 6 mesi, e quindi ogni 5 mesi ricominciava tutte le polemiche attorno a questa sospensione delle tasse. Finalmente insomma l'ultimo atto del governo Berlusconi, per opera di questo santo protettore di Letta, che ha letteralmente sposato la causa dell'Aquila e di tutto il cratere, è riuscito a definire questa annosa e brutta vicenda. I vari operatori economici non sapevano come comportarsi con i propri progetti di sviluppo futuro, invece adesso si è definito che il 60% è stato decurtato e il 40% verrà restituito in 120 rate a partire da gennaio. Questo a me sembra una cosa 10 volte più grande di una zona franca che non si sa se viene, anche per le ridotte entità, perché con tutto il rispetto stiamo parlando di circa 90 milioni di euro. Così dunque gli imprenditori aquilani. Prima di chiudere vi diamo un quadro finale su come sono andati anche gli altri titoli, cosa che prima non abbiamo fatto, come si diceva, giù le banche con Banco Popolare e Mediobanca tra le peggiori, meno 3,92, meno 3,27, giù Mediaset del 3,06, male anche la Popolare Emilia Romagna e Ubibanca, il 2,8 e il 2,7 di calo rispettivamente, giù anche Fiat del 2,6%, cede l'1,84% Parmalat, Generali l'1%, 1,7 così come di Assorin, 1,5% per Tenaris e Tots, un 1,4 per Exor, Pirelli giù dell'1,3 così come Finmeccanica e dell'1,2 A2A. Ansaldo SETS lascia sul terreno l'1,24%, Prismi all'1,14%, un punto percentuale tanto per il Monte dei Paschi quanto per Unicredit quanto per Enel, la Popolare di Milano giù dello 0,82%, Eni dello 0,7%, di mezzo punto percentuale Azimut, Snam Rete Gas Intesa San Paolo e Autogrill perde lo 0,4%. Telecom Italia perde lo 0,3%, Buzzi Unicem altrettanto, Fiat Industria allo 0,23%, Saipem lo 0,06%, Mediolanum in perfetto pareggio, infine titoli in positivo, Terna sale dello 0,31%, Enel Green Power dello 0,4%, così come ST Micro Electronics, Salvatore Ferragamo sale di mezzo punto percentuale, Atlantia dello 0,5%, Luxottica dello 0,6% e come si diceva in pregiro dello 0,7%, Campari dell'1,5% e Lottomatica del 2,11%. Ed è veramente tutto anche per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Barbara Bianchi in redazione, Pietro Lacorte in regia. Un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto. Ci si sente domani dopo il GR delle 17. Radio 24. Il Natale si sente.